Un'altra notizia di cui non si parla abbastanza è il fatto che la lingua italiana è stata estromessa dalle lingue, non dalle lingue ufficiali dell'Unione Europea, perché questo sarebbe particolarmente grave dato che siamo uno dei paesi fondatori, ma, e questa si tratta di una misura operativa, diciamo, dalle lingue in cui vengono tradotti i press briefing, vale a dire le conferenze stampa della Commissione Europea. E sempre tra i canali esotici, ho voluto verificare di persona, sintonizzando un canale che normalmente non guardo, che si chiama Europe by Satellite, il canale di servizio proprio della Commissione, ma anche del Parlamento. In realtà è un canale che trasmette tutti gli eventi di rilevanza, come si diceva una volta, comunitaria, tra cui appunto anche i press briefing della Commissione, che sono condotti da una signora un po' corpulenta ma molto simpatica, che è la portavoce di Barroso. E questa signora effettivamente ha condotto tutta proprio ieri una sua conferenza stampa sul tema dell'impegno politico di Barroso, che viene sempre usato un po' come strumento di politica interna. Cioè, in Portogallo è stato accusato Barroso di essere venuto meno ai suoi obblighi istituzionali europei facendo campagna elettorale per il suo partito con uno spot, e la signora si affannava a ripetere a tutti i giornalisti in tutte le lingue tranne l'italiano, evidentemente, che in realtà la carta, il codice di condotta della Commissione Europea permette a tutti i commissari, compreso il Presidente della Commissione, di tranquillamente di fare campagna elettorale sia a titolo personale che addirittura proprio come era esponente del partito politico. Quindi questo credo metta la parola fine anche sulle polemiche che coinvolsero, ricorderete, Prodi, quando era ancora Presidente della Commissione, e che giustamente interveniva nel dibattito politico italiano. Ma al di là di questo, appunto, quello che un po' colpisce è il fatto che l'italiano sia sparito da questi press briefing. Non so se per motivi puramente così economici, dato che anche la Commissione vuole dare un certo segnale di asciuttezza delle proprie finanze, tagliando i costi non necessari, forse tra questi ci sono i costi di traduzione di tutta la documentazione, di tutti i resoconti scritti, e forse anche per questo che alcune lingue, devo dire, non solo l'italiano, sono state fatte fuori. Però è qualcosa, insomma, che credevo potesse suscitare una qualche reazione da noi, e invece non è successo assolutamente nulla. Ho letto, mi pare, un trafiletto su un quotidiano l'altro giorno, ma niente di che. Quindi forse l'Italia si sta avviando speditamente a diventare uno di quei paesi di cui si parla sempre di meno, e che non è detto che sia un male. Stiamo forse avviando a diventare una specie di Kurdistan, vale a dire un popolo senza più punti di riferimento. Se veramente in futuro ci sarà anche l'unione politica in Europa, l'Italia sarà qualcosa di cui sarà il caso di dimenticarsi in fretta. Una brutta parentesi, diciamo, tra gli imperi, le dominazioni e l'integrazione europea. Ma perché dico una brutta parentesi? Chiaramente questa vuole essere anche una provocazione. Ma perché, non lo so, io ho la sensazione che questo presunto popolo di santi, poeti, navigatori e trasmigratori si sia distinto così per una serie di imprese abbastanza discutibili in quella che, ripeto, potrebbe essere una parentesi, potrebbe diventare una Disneyland per russi e cinesi benestanti, ma una vocazione che abbiamo forse molto più nel sangue di quello che siamo disposti ad ammettere. In quanto come poeti siamo stati capaci soprattutto di ispirare una delle più ridicole e becere dittature che la storia abbia conosciuto, come navigatori abbiamo perso tutte le battaglie possibili e immaginabili, ma parlo chiaramente dell'Italia unita, non dei grandi navigatori che abbiamo avuto prima. Come trasmigratori abbiamo esportato la mafia, salvo poi vantarcene dalla madre patria, farne motivo di vanto. Quindi quindi non vedo cosa vi sia da salvaguardare, da rievocare. Mi rendo conto che in un pendodelirio è abbastanza difficile avere un contraddittorio, perché questo è un mezzo di comunicazione unidirezionale, esistono i commenti nel blog, però credo che qualcosa di così istintivo come il naturale odio verso la propria cosiddetta patria sia qualcosa che forse è meglio dire a voce piuttosto che scrivere, perché viene veramente dal profondo.